Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Storie oblique di alieni e di viaggi interstellari. Porno local, le nuove mode dell'industria del voyeurismo. Venti di protezionismo spirano in Francia e dalla Spagna. Benvenuti a Magazine 24, sono Marco Bellinazzo, vi terrò compagnia oggi e domani in attesa che il titolare della cattedra, Mauro Meazza, torni a farvi compagnia dalla prossima settimana. Dunque oggi, in questa rassegna di periodici e settimanali che troverete in edicola, abbiamo trovato varie curiosità, ma quella che mi aveva colpita soprattutto era questa nuova attenzione al mondo degli UFO e degli alieni. Un'attenzione che è suscitata anche per la ripresa di attività cinematografiche, di produzioni televisive legate a questo tema. Qualcuno di voi l'ha visto, qualcun altro no, ma lo scorso 5 luglio è stato trasmesso per la prima volta in Italia Falling Skies, che è questa nuova serie già culto negli Stati Uniti, prodotta da Steven Spielberg, e che ha come protagonista il dottor Carter di ER, medici in prima linea che molti di voi ricorderanno, Noah Weil. Questa serie, di cui ha parlato anche Aldo Grasso sul Corriere della Sera, riprende un po' i temi di Visitors o di altre saghe analoghe. Gli alieni hanno preso possesso della Terra, bisogna difenderla, e questo professore di storia, che è stato intervistato sul numero di Grazia da Anna Gennari, appunto interpretato dal dottor Carter di ER, è un po' l'eroe di questa rivoluzione, di questa resistenza americana. Molti hanno visto in questa nuova serie anche un richiamo ovviamente alle vicende politiche americane, non solo americane, con la richiesta evidentemente di nuovi valori etici che dovrebbero guidare il mondo della politica. Infatti il protagonista, appunto intervistato, spiega che Tom è un leader capace e onesto. L'idea che si vuole suggerire è quella di un grande nuovo statista combattente, un incrocio tra Thomas Jefferson e George Washington addirittura. Quindi c'è la ricerca evidentemente anche nel tema degli UFO del bisogno di una nuova identità dei terrestri, e la pagina dopo di Grazia è occupata da una intervista che ho trovato molto bella ma anche inquietante a un protagonista di queste vicende che ha suggerito in qualche modo anche al mondo cinematografico italiano il tema di questo film, appunto Sei giorni sulla Terra. Devo dire, bisogna leggerla con attenzione questa intervista, perché l'intervista è a Corrado Malanga, che è docente di chimica organica e uno dei massimi esperti di ufologia e rapimenti alieni. Pare che in Italia ci siano 600.000 casi di rapimenti alieni. Ora, tra l'altro il professore dice di aver resistito, di essere sfuggito a un rapimento, se ho capito bene, ma da bambino sognava che lo portassero via. Evidentemente aveva ascoltato l'amante di Eugenio Finardi e della famosa canzone. In ogni caso lui dice che gli chiedono, appunto, nell'intervista fatta da Simona Coppa, cosa cercano gli alieni e gli esseri umani. Me lo sono chiesto anch'io, forse in tanti ce lo siamo chiesti, e la risposta è veramente bella. Dice: noi esseri umani possediamo una forma di energia di cui non siamo consapevoli, ma preziosa per gli alieni per rigenerarsi. Gli scienziati gli hanno dato il nome di anima. Dunque cercano l'anima, gli alieni, anche i preti la cercano, insomma tutti alla ricerca di quest'anima. Tra l'altro c'è questo riferimento anche alla tecnologia, ecco, perché per raccogliere questa energia, quindi a differenza di quello che avviene nelle chiese e in altri luoghi, gli alieni hanno trovato un sistema molto più rapido, forse indolore, non si sa, ma in ogni caso impiantano dei microchip nelle mascelle o in altre parti del corpo, e le persone al risveglio non si accorgerebbero più di questa cosa. In particolare, appunto, Corrado Malanga racconta di aver parlato con una ragazza di 26 anni che dice di essere stata prelevata più volte e sottoposta a interventi chirurgici e innesti di microchip di cui gli porta le cicatrici. Insomma, una storia inquietante. Io spero che non incontrino invece questo tipo di alieni i cosmonauti americani che stanno partendo in queste ore per l'ultima missione dello shuttle. Ce ne parla su Vanity Fair Umberto Guidoni, molti di voi lo conoscono, e l'astronauta che ha partecipato, insomma, all'assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale, è stato il primo europeo a salire a bordo della base orbitante. Lui ha passato circa un mese nello spazio percorrendo oltre 18 milioni di chilometri. Chissà, lo chiederemo a Guidoni se ha mai incontrato questi extraterrestri che impiantano microchip. No, le notizie che però ci dà Guidoni sono molto interessanti, perché appunto, oltre a ricordare che d'ora in poi per qualche anno gli americani dovranno chiedere un passaggio ai russi per andare sulla stazione orbitante, perché la Soyuz continuerà a viaggiare a differenza appunto dello Space Shuttle, che andrà a riposarsi in qualche museo americano, ci ricorda che si profila una sorta di privatizzazione dei viaggi interstellari, perché appunto l'amministrazione Obama, pur avendo ribadito il suo impegno nella ricerca di nuova vita fra le stelle, ha però insomma dovuto fare i conti con le scarse risorse pubbliche che anche gli Stati Uniti hanno dopo la crisi finanziaria, e dunque ha affidato a una serie di compagnie private, o almeno ha fatto una gara per l'incarico appunto di costruire i nuovi razzi e le nuove capsule. E appunto una di queste aziende, chiamata Space Exploration Technologies, SpaceX, ha vinto la gara, e quindi fra poco costruirà il nuovo Falcon, il razzo, la nuova capsula che si chiamerà Dragon, anche qui nomi molto molto interessanti, e in sostanza sono quindi strumenti privati che dovrebbero rimpiazzare lo Space Shuttle e quelli pubblici. Insomma, per chi in Italia discute della privatizzazione dell'acqua pubblica, forse si porrà insomma negli Stati Uniti qualcuno il problema anche della privatizzazione dei viaggi interstellari, ma sono problemi che hanno altri. Noi per fortuna non andiamo nello spazio, insomma. Questa era Battle of Swing, che fa parte della collezione dei miti del jazz, che sono in edicola con Il Sole 24 Ore al prezzo di 9,90 euro, la collana dei 25 grandi interpreti del jazz, che questa settimana fa tappa nell'universo appunto di Duke Ellington. Duke Ellington è uno dei massimi esponenti ovviamente della musica jazz, insieme a Louis Armstrong. A differenza dei grandi musicisti, insomma dei grandi interpreti di questo genere musicale, che erano poveri, avevano esistenze disgraziate, Ellington è riuscito insomma a vivere un'infanzia abbastanza felice, anzi era abbastanza avvezzo anche a vestirsi in maniera, come dire, particolarmente raffinata. Per questo guadagnò il soprannome di Duke, ma sicuramente quella che è stata la sua grande passione è la musica, il pianoforte. Fin da quando avevo 7 anni iniziò ad esercitarsi, in particolare poi gli piacevano i suonatori di ragtime, viaggiò molto, ebbe questa grande fortuna e iniziò questo percorso musicale che lo ha portato a creare, incidere più di 1500 composizioni che rappresentano, come dire, il patrimonio mondiale della musica jazz. Duke Ellington amava ripetere: la cosa più importante che faccio nella musica è ascoltare. Una riflessione per tutti quanti, insomma, per ascoltarci quando facciamo delle cose, prima ancora di farle sbagliate. Oh, dagli alieni e dalle orbite celesti passiamo al voyeurismo casereccio, è il tema dell'inchiesta di Panorama di questa settimana, che parte dal caso, molti di voi l'avranno sentito, della segretaria del circolo del PD di San Miniato che ha partecipato, insomma, a uno di questi filmini un po' caserecci, poi ha cercato di farlo ritirare, poi è stata riconosciuta anche se aveva una mascherina, io vorrei sapere chi l'ha riconosciuta, è stata costretta a dimettersi dai suoi incarichi politici. Peraltro sul tema vorrei fare prima un riferimento a un articolo di Fabrizio Rondolino, che invece è su Vanity Fair, che dà una lettura controcorrente, se vogliamo, e accusando appunto quella che è una regressione culturale profonda che sta vivendo l'Italia, che con l'acqua sporca del Bunga Bunga rischia di buttare anche il bambino della libertà sessuale, ritiene appunto che la segretaria non avrebbe dovuto dimettersi, anche, anzi avrebbe dovuto rivendicare la libertà della sua scelta, una posizione che alle femministe evidentemente farà molto piacere leggere, ma quello che ci interessa, al di là di aspetti pruriginosi che lasciamo stare, sono riferimenti a quella che l'industria, questa casereccia dell'hardcore della porta accanto, che sta divorando invece i fatturati dell'industria ufficiale e anche, diciamo, grazie ovviamente agli strumenti informatici. Mi hanno colpito due aspetti di questa inchiesta. Innanzitutto si punta molto sul local nell'industria del sesso, cioè pare che da alcune indagini, indicate ovviamente nell'articolo, vada molto ormai questo genere del MILF, che l'acronimo non posso leggerlo in inglese perché insomma, però appunto sembra che l'importante ormai sia trovare donne over 40 medio cellulitiche. Oh, e facendo un salto ancora a Vanity Fair, questo concetto delle donne quarantenni cellulitiche che vanno molto nell'industria casareccia e del porno, c'è questo piccolo articolo pubblicato su Vanity Fair di Stefania Mascetti, in cui si riporta una ricerca fatta da un'università di Liverpool e sembrerebbe che agli uomini piacciono di più le ex grasse. È una novità, io ci credo, perché queste ricerche sono assolutamente attendibili, cioè tra una donna bella ed una che è diventata bella dopo un dimagrimento più o meno intenso, gli uomini appunto preferiscono queste seconde donne, pare per una questione insomma di maggiore affidabilità e di rassicurazione, si cerca sempre la mamma nelle donne. E ritorniamo invece all'inchiesta della pubblicata su Panorama sul mercato del sesso, della porta accanto, che sta divorando, dicevo, i margini di guadagno di quelli ufficiali, perché mi ha colpita questa notizia per cui prima negli Stati Uniti, dove per colpa di pirateria e download gratuiti la vendita e il noleggio dei DVD, che fino a 4 anni fa appunto permetteva a questa industria di incassare 4,2 miliardi di dollari, invece se ne incassano appena 3, e c'è insomma una grande crisi che questa industria sta cercando in qualche modo di combattere rivolgendosi a prodotti molto molto più economici nella produzione. Non so, forse delocalizzeranno anche questo tipo di produzione, ma non è una notizia questa. Dal profano della pornografia al sacro della letteratura, e vi voglio parlare della nuova iniziativa editoriale del Sole 24 Ore insieme alla Fondazione Bellonci, che da ieri e per molte settimane pubblicherà tutti i libri capolavori che hanno vinto il premio Strega. La prima edizione, insomma, di questa collana è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ne seguiranno tante altre, insomma, sono molti gli autori importanti, insomma, che hanno vinto il prestigioso premio Strega, da Caos Calmo di Veronesi a Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, Il nome della rosa di Umberto Eco, L'isola di Arturo di Elsa Morante, tanto per citarne alcuni. Insomma, il prezzo è di 9,90 euro più il prezzo del quotidiano, ovviamente la prima uscita è 3,90 euro per chi vuole ritornare a leggere Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Oh, l'ultimo tema che riusciamo ad affrontare, il tempo è volato in questo sabato di luglio, E questa inchiesta del settimanale francese, il Nouvel Observateur, sul ritorno del protezionismo in Francia. C'è un articolo molto interessante che si interroga appunto sulla demondializzazione dell'economia, una serie di domande che scaturiscono da un sondaggio in cui in pratica solo un francese su 10 si dice contento della globalizzazione, mentre sono insomma tutti gli altri molto molto preoccupati. Tra l'altro il tema della deglobalizzazione, demondializzazione diventerà il tema centrale della nuova campagna presidenziale, e ci si chiede appunto se non sia il caso di rilocalizzare la produzione in Francia, di creare una sorta di protezionismo non solo francese ma magari europeo. Ci si chiede quali siano effettivamente le bontà dell'euro e se sia stato saggio far entrare la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Insomma, si prova a dare tutta una serie di risposte che sarebbero troppo lungo dire, ma per chi è interessato a questi temi, insomma, do il consiglio di leggere questo articolo, che in qualche modo si può ricollegare a quanto pubblicato invece dal settimanale Vita sugli indignados spagnoli, che stanno preparando insomma una nuova manifestazione e parlano con i loro rappresentanti della necessità di un'economia tripolare, non più Stato-mercato ma società civile, partecipazione insomma dei giovani all'economia, temi che in qualche modo richiamano la necessità di combattere queste forme esasperate di mercatismo che evidentemente stanno creando una forte e non più accettabile diseguaglianza non solo tra le classi sociali ma anche tra le generazioni. In particolare Vita ha intervistato Monzón Campos, che è un professore di politica economica all'Università di Valencia, che appunto afferma che ci vuole un'economia tripolare. All'attuale bipolarismo tra Stato e mercato bisogna aggiungervi la società civile, che può e deve avere più potere nell'influenzare le grandi decisioni. Per il 23 luglio a Madrid ci sarà una grande manifestazione. Giovani spagnoli stanno chiamando a raccolta gli altri indignados giovani europei e potrebbe essere insomma un appuntamento storico per la nuova Europa. Io vi saluto qui, l'appuntamento di sabato si chiude, ci sentiamo per chi vuole domani a questa stessa ora. Saluto in regia Fabio Cantadori, in redazione Anita Panizza.